Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. In attesa di Pittsburgh, come dicono quelli che hanno studiato l'americano, dove questa sera con una cena inizierà ufficialmente il G20, il vertice dei 20 paesi, in cui si andranno a illustrare da un lato e a discutere soprattutto lo stato dell'arte dell'uscita da questa crisi economica. Varie dichiarazioni anche oggi, ve le faremo ascoltare. Di nuovo ha parlato il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ma dicevamo fotografia della situazione e anche qualche idea sulle eventuali exit strategies, come si chiamano. Molti dicono che sia ancora troppo presto, cioè le strategie di uscita da questa crisi. Una volta che l'economia avrà ripreso a crescere e quindi a recuperare terreno su base costante, ma soprattutto oggetto dell'incontro saranno le regole. È chiaro a tutti infatti che per non rivedere il film visto tra il 2007 e il 2008 occorrerà cambiare qualcosa nelle regole internazionali sui flussi finanziari, sugli investimenti finanziari, quindi regole, controllori, sanzioni, authority, come si chiamano in gergo, ma anche all'interno di questo tutta la polemica molto politica, forse più che strettamente economica, sui compensi ai manager dei gruppi bancari e dei gruppi finanziari. Anche lì bisognerebbe distinguere tra le dichiarazioni che fanno comodo ai politici, ai governi per creare consenso nell'opinione pubblica e le strade realmente praticabili, cioè immaginare che i salari vengano fissati dallo Stato. È un po' difficile immaginare che tutti i paesi si adeguino a un'unica regola, è un po' difficile. Comunque questi tre temi sul tappeto. Nel frattempo, come dicevo, oggi qualche dichiarazione c'è stata proprio in vista del vertice, che avrà la sua giornata principale domani. I mercati finanziari pensano ad altro, nel senso che l'America sta perdendo lo 0,4%, questo ha fatto peggiorare tutte le borse europee, ben 1,5% Parigi e anche Francoforte, l'1% lo perde Londra e anche Milano. Da noi il titolo peggiore in questo momento tra quelli più importanti è Intesa, -3%, segue Steam Microelectronics, -2,80%, Campari, -2,5%, il 2,3% lo perde Prysmian, ma anche Ansaldo, il 2% è il calo di Bulgari, l'1,80% quello di Talcementi, 1,5% il calo di Fondiari, Assai, Buzzi, Unicem, l'1,3% lo perde la Popolare di Milano e Impregilo, ma anche Autogrill e Luxottica. Chi guadagna oggi in borsa? Pochissimi titoli. CIR +2,90%, Mediobanca +1,80%, Mediolanum +1,5%, Monte dei Paschi +0,4% e abbiamo finito. Migliori peggiori, vediamo subito. Pquadro +7,3% e invece resta sull'otto volante Safilo, perché perde il 6,6%. Ancora per quello che riguarda l'euro sul dollaro, siamo sempre a quota 1,47, non più vicini a quota 1,48, siamo proprio al limite tra 1,47 e 1,46,9. Comunque, sempre forte l'euro. Ancora dei temi che tratteremo in generale, parleremo anche del settore dell'agricoltura, del latte, del lattiero caseario. Da settimane ci arrivano messaggi da parte di, immagino, agricoltori, comunque produttori, su una situazione drammatica che, devo dire, riguarda tutta l'Europa: il crollo dei prezzi dei generi, dei prodotti dell'agricoltura quando escono dal campo, perché poi nel frattempo scopriamo che ci sono 4, 5, 6 volte aumenti tempo che li compriamo noi, cioè i rincari sono del 600, 700, 1000% nell'ortofrutta e anche nel settore lattiero caseario. Ho raggiunto un accordo ieri tra Italia e Francia per presentare un documento unico a Bruxelles il 5 ottobre, accordo importante perché va a tutelare soprattutto la nostra produzione di formaggi e le 40.000, quasi 39.000 stalle presenti nel nostro paese. Ne parleremo con il ministro dell'agricoltura Luca Zaia. Infine, nella seconda ora del programma, torneremo, come stiamo facendo da settimane, con le testimonianze degli imprenditori, alternando imprenditori grandi, importanti, di successo, che raccontano come stanno affrontando e reagendo a questa crisi, con casi invece di piccoli imprenditori in maggiore difficoltà. Vi anticipo che tornerà una persona che ci dia una testimonianza molto molto, a mio avviso, toccante e molto molto drammatica a maggio, dicendoci: non so se a settembre riuscirò a riaprire. Ci sembrò un caso emblematico della situazione in cui versavano le piccole, piccolissime imprese italiane, in particolar modo del centro-nord del paese. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Va sotto i 66 dollari al barile il petrolio, quindi tutto sommato una buona notizia. È il livello più basso dal 17 agosto. Viaggio appunto molto debole il petrolio alla luce anche di alcuni dati americani. Oggi, tra l'altro, dall'America è uscito il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione, che sono ulteriormente scese, 21.000 in meno, a quota 530.000, un dato migliore delle stime, ma che evidentemente la borsa in America sta ignorando. E il Fondo Monetario Internazionale, assieme a altri organismi, o meglio si aggrega a quanto detto da altri organismi, per ricordare che il 2009 forse potrebbe chiudersi un po' meglio rispetto alle stime. Certo, l'abbiamo già visto anche da noi con la legge finanziaria presentata, i miglioramenti non saranno cose epocali, però invece che un meno 5,2% di PIL dovremmo fare un meno 4,8%, e complessivamente l'intera area euro dovrebbe chiudere forse un po' meglio, anche se con un profondo calo. Lo ha ricordato lo stesso direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn. Sale l'indice IFO in Germania, è l'indice che misura la fiducia tra le imprese tedesche, ha toccato i massimi da un anno a questa parte. Sono tutti piccoli indicatori, tutti parziali, ma a mio avviso messi assieme danno un quadro molto importante della situazione. Botta risposta tra Bruxelles e l'Italia. La Commissione europea ha detto: i tetti sulle assegnazioni di quote di CO2 all'Italia non sono rinegoziabili. Lo ha detto scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio, e l'Italia quindi ha avuto assegnate una quota di emissione pari a 195,8 milioni di tonnellate di CO2 per il periodo 2008-2012, con un calo che si chiede all'Italia del 6% nell'emissione di anidride carbonica. E il governo aveva chiesto 209 milioni, Palazzo Chigi ha risposto: noi non abbiamo mai chiesto di rinegoziare le quote assegnate. L'export e l'import, l'esportazione e l'importazione. Continua questo paradosso per cui le esportazioni crollano, ma cadendo meno delle importazioni, la bilancia commerciale italiana è positiva, cioè importando meno di quanto esportiamo, la bilancia commerciale va a un saldo positivo, e tra l'altro è ai massimi dal 1998. Nel mese di luglio, infatti, la differenza tra quanto abbiamo importato e quanto abbiamo esportato è a nostro vantaggio per 4 miliardi di euro, che è il doppio del 2008. Certo, se poi si vede quanto abbiamo esportato, è il 20% in meno rispetto a un anno fa, ma abbiamo importato il 27% in meno. La notizia buona è che le esportazioni, invece, fotografate mese su mese, non anno su anno, stanno migliorando, più 3% a luglio rispetto a giugno. I paesi dove sono calate le esportazioni: Germania meno 22%, Francia meno 16%, sempre rispetto a un anno prima, Gran Bretagna meno 22%, Spagna meno 31%, Russia meno 35%, America meno 24%, Cina meno 9%, Giappone più 3%, paesi OPEC, quindi Medio Oriente soprattutto, meno 15%. I settori dove si esporta: beh, il tessile di abbigliamento ha perso il 17% nelle esportazioni a luglio rispetto all'anno prima, come il calzaturiero; la meccanica ha perso il 21%, chimica meno 14%, elettronica meno 13%, mezzi di trasporto meno 30%. Alcuni di voi ci scrivono sulla vicenda Istat, cerchiamo di parlare con i responsabili, è difficile capire esattamente che cosa sia successo. La ricordo a tutti: si è saputo che il governo ha deciso di appaltare all'esterno l'indagine, l'attività di indagine e di statistica sulla forza lavoro, sull'andamento della disoccupazione e dell'occupazione. Non si capisce perché oggettivamente, anche perché all'Istat tra l'altro provvedevano a elaborare questi dati 317 lavoratori precari che adesso rischiano di perdere il posto di lavoro. Invece questo lavoro di analisi, di formulazione dei dati sulla disoccupazione e l'occupazione è stato appaltato all'esterno alla società privata Ipsos, che è quella di Nando Pagnoncelli. Ancora fisco, sulle entrate fiscali arrivano i dati anche dalle filiali estere delle banche. Sui paradisi fiscali l'OCSE annuncia un accordo della Svizzera con gli Stati Uniti per dare maggiori informazioni sui conti correnti, undicesimo accordo che la Svizzera ha firmato per riuscire ad uscire dalla lista grigia in cui è infilata. Lei non è nella blacklist, non è nella lista nera, ma nella lista grigia dei paesi non così collaborativi, non proprio paesi paradiso fiscale, ma quasi. Devo dire, leggo molti messaggi ancora sullo scudo fiscale, non ne parliamo anche oggi, vedo chi scrive, ma insomma noi facciamo la lotta ai paradisi fiscali e poi trasformiamo l'Italia in un paradiso fiscale con questa legge sullo scudo. È un'obiezione che abbiamo già sentito, cioè che fare la lotta sui paradisi fiscali potrebbe sembrare in contraddizione con l'operazione sullo scudo fiscale. E di paradisi fiscali ha parlato oggi anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che in una lettera inviata al Presidente americano Barack Obama in vista del G20 di questa sera ha detto: come è già avvenuto nel corso del G8 dell'Aquila, dobbiamo portare avanti il lavoro contro i paradisi fiscali, contro giurisdizioni poco o per nulla cooperative nello scambio di informazioni. A Pittsburgh dobbiamo andare avanti nel combattere l'evasione fiscale internazionale che danneggia le finanze pubbliche e il senso di equità dei cittadini. E visto che ne stiamo accennando, partiamo con il nostro primo approfondimento, il vertice di Pittsburgh. Stasera inizia il G20, deve fare il punto sulla crisi. Sapete, conoscete il nostro scetticismo quando vi sono questi vertici così allargati, così grandi. Tutti vanno a visitare questa città che è un modello, devo dire. Pittsburgh potrebbe essere presa da modello anche da Milano, da Roma, da altre città. Milano, diciamo Milano, perché era una città piena di ciminiere, di fabbriche, insomma il classico esempio dell'industrializzazione americana, è diventato un gioiello ecocompatibile con il maggior numero di biciclette di persone che usano la bicicletta in tutta America. Ma al di là di questo, che riguarda solo gli urbanisti e gli amministratori locali, non so cosa potrà uscire dal G20. I paesi che sono presenti rappresentano da solo praticamente il 90% dell'economia mondiale, cioè a Pittsburgh si trovano i rappresentanti del 90% del PIL mondiale e dei 2/3 della popolazione del pianeta. Dopodiché i temi sul tappeto sono sostanzialmente 3: a che punto si è sull'uscita dalla crisi, ne ha parlato Barack Obama ieri sera, chiedendo che dal G20 esca un'idea di crescita economica equilibrata e sostenibile. In America we see the engine of growth beginning to churn. In America vediamo che il motore della crescita si è acceso di nuovo, eppure sono ancora tanti coloro che lottano per trovare un lavoro o pagare le bollette. A livello globale ci sono segnali incoraggianti, ma c'è poca certezza su cosa ci aspetta nel futuro prossimo. Ancora in tanti, ogni giorno, affrontano sfide a livello umanitario, come quello di stomaci vuoti a causa della scarsità di acqua. E che dire poi di quanto sia ingiusto vedere un bambino che muore per una malattia curabile o una donna che perde la vita dando alla luce il figlio? The injustice of a child dying from a treatable disease or a mother losing her life as she gives birth. A Pittsburgh lavoreremo con le più grandi economie per arrivare a una crescita che sia equilibrata e sostenibile. E ciò significa vigilanza per garantire che non molleremo finché la gente non è tornata al lavoro. Ciò significa intraprendere il percorso per rilanciare la domanda in modo che un recupero globale sia possibile. Significa anche stilare nuove regole e rafforzare i regolamenti per tutti i nostri centri finanziari in modo da poter arrivare arginare la cupidigia, gli eccessi e gli abusi che ci hanno portato al disastro ed evitare che una crisi come questa possa succedere di nuovo. Così Barack Obama ieri sera. Vedo già molti messaggi al 349-238-6666 ancora sul tema dello scudo fiscale. Vi darò un commento alla fine. Andiamo avanti, restiamo su questo tema. Da Pittsburgh l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buonasera, buongiorno per te Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, al di là della nebbia in cui sei calato, speriamo che non sia di un cattivo presagio sugli orizzonti invece che dovrebbero esplorare i venti grandi, vorrei capire che cosa ci si attende come comunicato complessivo sulla situazione economica. Si cercherà di dire la situazione sta migliorando ma non è ancora messa bene, che è un po' il colpo al cerchio, alla botte del Fondo Monetario Internazionale? Ma il leitmotiv è un po' questo, che pian piano ci si sta avvicinando alla fine della crisi, probabilmente l'economia mondiale è già uscita dalla recessione, però c'è un problema grave ed è quello cui accennavi prima, che quando l'economia cresce, ricomincia a crescere, poi la disoccupazione però continua a crescere spesso almeno per un anno dopo la fine della recessione in senso tecnico, e quindi c'è un problema molto serio di conseguenze sociali di questa recessione. L'altro è quello di equilibrare questa crescita, come non lo era invece nel periodo di boom precedente. Il boom precedente è stato sostanzialmente creato dal consumatore americano, che veniva finanziato con questi immensi acquisti di buoni del tesoro americani da parte dei cinesi e dei paesi esportatori di petrolio. Tutto questo, dicono gli Stati Uniti, che poi sono corresponsabili di questa situazione, non dovrebbe più succede in un ideale mondo nuovo. Il problema è che tutti sanno esattamente quello che dovrebbe avvenire, cioè gli americani dovrebbero risparmiare di più, gli europei magari rendere più dinamica l'economia attraverso le famose riforme strutturali e i cinesi spingere la domanda interna. Un po' questo sta avvenendo, ma probabilmente non in misura sufficiente, soprattutto non c'è un meccanismo per poi fare rispettare queste tendenze, queste misure. Chi è che farà rispettare il fatto che gli americani devono risparmiare di più, gli europei fare le riforme strutturali? Il Fondo Monetario, francamente, c'è qualche dubbio in proposito. Sì, a me sembra che la stretta via dell'uscita da questa crisi si possa così definire, cioè tra Scilla e Cariddi, mettiamola così. Allora, abbiamo da una parte Scilla, che sono i deficit e il debito che tutti i paesi hanno imbarcato in questo anno per salvare il sistema finanziario, soprattutto anche per altre misure di sostegno sociale, ma insomma i deficit sono schizzati e anche il debito. Prima o poi dovrai anche iniziare a rientrare su questi soldi, no? Non puoi vivere con questo, altrimenti ci sarà un momento in cui inizierà a generarsi un problema anche di così affidabilità del tuo debito, del tuo credito. Per far questo, e lì arriviamo a Cariddi, tu hai sostanzialmente una strada: ridurre la spesa pubblica e o aumentare la pressione fiscale. Non è che ci siano altri modi, anche perché la crescita economica non sarà così tumultuosa l'anno prossimo. Il problema è che aumentare le tasse o comunque diminuire le spese in un periodo in cui le economie stanno rialzando la testa può significare soffocare, passatemi il termine, il bambino nella culla, cioè può significare uccidere la ripresa prima ancora che si sia realizzata, e soprattutto il prezzo politico rischia di essere altissimo. Se però non lo fai, come giustamente scriveva qualche tempo fa Nuriel Rubini, rischi di cadere in quella situazione giapponese, cioè se tu non torni a essere virtuoso ti riparte l'inflazione e dopo l'inflazione vai di nuovo a questo punto verso un percorso recessivo. Non è facile, Alessandro. Non credo infatti che il G20 abbia la soluzione. La soluzione prospettata, che è appunto quella di far crescere la domanda interna nei paesi emergenti e soprattutto nei paesi asiatici, che in qualche modo si sostituisca al consumatore americano, che è stato il motore degli anni del boom precedente, è una soluzione nota ma non facile da percorrere, anche perché i cinesi per il momento sanno quello che devono fare ma sono un po' riluttanti a farlo. anche perché il consumatore cinese si muove con grandissima cautela, in Cina non c'è un sistema di sicurezza sociale, quindi i cinesi tendono a risparmiare a scopo precauzionale molto di più di quanto non facciamo noi. E poi, come dicevamo, è difficile fare mettere in atto forzosamente queste cose quando non c'è la spinta politica a farlo, per cui c'è il rischio di dire facciamo questo grande coordinamento, ma poi ognuno risponderà a delle considerazioni di politica. Almeno avranno visto Pittsburgh. Al di là della battuta, ci chiedete perché non possiamo adesso ritracciare, lo faremo in un'altra puntata probabilmente, di ritracciare tutte le variabili in gioco, però in sostanza in questo momento i tassi sono a zero, il denaro costa zero, i mutui sono a livello più basso storicamente, c'è liquidità in giro perché ce n'è, la borsa un po' è risalita, un po' ne è assorbita, ma ci sono ancora molti soldi che vagano. Allora, o prima o poi torneranno a esserci strette sui tassi di interesse che torneranno a salire e quindi un po' di pressione fiscale per cui non si genererà inflazione, altrimenti se continuerà a esserci denaro che costa niente, i mutui che costano niente, si riparte con una dinamica di inflazione. Inflazione però cosa vuol dire? Vuol dire che poi erodi potere d'acquisto, fa risalire i mutui perché partono di nuovo in alto i tassi di interesse e rischi di rientrare in una nuova catena di stagnazione economica, oltre che mettere in discussione anche l'affidabilità delle tue obbligazioni. È un discorso un po' lungo, lo affronteremo un'altra volta, magari anche domani. L'altro passaggio importante di questo vertice, Alessandro, dovrebbe riguardare invece le norme, le regole, le autorità di vigilanza, la comunicazione tra varie autorità, le sanzioni, insomma tutto quello che deve servire perché non si ripetano i casi che hanno portato all'esplosione della bolla finanziaria del 2007-2008. Sentiamo ieri il segretario del Tesoro Tim Geithner ricordare delle regole e di che cosa devono anche prevedere alcune di queste regole. Lasciate che chiarisca ciò che ritengo importante. È fondamentale che le maggiori istituzioni, quelle il cui futuro potrebbe minacciare il corso dell'economia nel suo insieme, siano sottoposte ad un maggiore livello di supervisione. È necessario inoltre che le norme pongano maggiore accento sul fatto che è necessaria un'elevata qualità del capitale per meglio assorbire eventuali perdite. Questo nel caso vengano commessi degli errori. Vogliamo che sia chiaro che se abbiamo a che fare con un'istituzione le cui sorti possono costituire una minaccia al sistema finanziario, è necessario che il livello di controllo sia molto alto. E occorre che questo venga fatto in modo che non si crei l'attesa e la speranza che il governo intervenga in caso di fallimento. Occorre dare a queste istituzioni i mezzi per far sì che non ci sia bisogno che il governo si faccia avanti per salvarle. Il punto chiave della riforma è dunque che non dobbiamo rafforzare l'idea che se succede qualcosa il governo proteggerà dalle perdite. Il nostro lavoro è assicurare che il sistema sia meno vulnerabile alle difficoltà che possono emergere quando vengono commessi gravi errori. Is less vulnerable to the collateral damage that can be caused when people make big mistakes. Quindi, Alessandro Melli, poi domani vi torneremo, ma in sostanza si chiede alle autorità di vigilanza di parlarsi di più, di avere un coordinamento, tanto non si arriverà ad avere una super authority mondiale, è impossibile. E quindi Consob, Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Federal Reserve, SEC, Bank of England, tutti devono parlarsi di più per avere un controllo su questi flussi di capitale che sono come delle anguille. Partono da Wall Street, passano per le Bahamas, per Bermuda e per le Cayman, rientrano su Londra, poi rigirano. Insomma, questa anguilla qualcuno la deve afferrare. Dall'altra parte si chiederà, abbiamo appena sentito Geithner dire, le banche e comunque le società finanziarie devono mettere da parte, accantonare, cioè i ratio devono avere livelli più alti, perché tu se prendi questi rischi devi mettere da parte in cascina più soldi, se no poi tocca a noi salvarti. Terzo aspetto, i bonus, che è molto più politico. Alessandro, speranze che si arrivi a un accordo. Il G20 è molto più diviso sulla questione delle regole della finanza che non sulla interpretazione di dove stia andando la crisi economica. È diviso perché? Sostanzialmente perché parte da due convinzioni diverse su cosa abbia generato la crisi, cioè c'è l'interpretazione franco-tedesca che dice sono stati dei banchieri irresponsabili spinti da questo desiderio di ottenere dei bonus astronomici che hanno adottato dei comportamenti che hanno messo poi a repentaglio la solidità non solo delle singole istituzioni per le quali lavoravano, ma anche dell'intero sistema finanziario. L'interpretazione americana è diversa, dicono il problema è che queste istituzioni non avevano sufficiente capitale per far fronte all'espansione delle loro attività, quindi c'è bisogno di mettere dei limiti sia alla loro capacità di usare la leva finanziaria e soprattutto alzare i requisiti patrimoniali delle banche. Per fortuna questi due punti di vista diversi sono stati messi in mano per una sintesi a una persona di buon senso che è il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che come presidente del Financial Stability Board, che raggruppa un po' tutte le autorità di supervisione e di vigilanza, ha il compito, il dovere di trovare un compromesso e che qui a Pittsburgh presenterà le sue proposte. Credo che si arriverà a una sintesi in questo senso, si deciderà, come chiedono gli americani, di aumentare i requisiti patrimoniali delle banche, ma lo si farà con una prospettiva di più lungo periodo, perché è chiaro che nel momento in cui già l'economia soffre per una mancanza di credito, se si chiede alle banche di aumentare i requisiti patrimoniali e quindi in pratica di prestare di meno, si strangola la ripresa. Quindi lo si farà con una prospettiva di medio e lungo periodo. Dall'altra parte sui bonus verranno imposti dei limiti, verranno eliminati i bonus garantiti, però non verrà messo un tetto ai bonus individuali. Sicuramente però i bonus verranno legati molto più che in passato all'andamento delle singole banche e soprattutto al fatto che non possono essere premiati dei trader o dei manager che poi creano delle perdite e non dei profitti. Va anche detto che Draghi è forte della sua passato e del suo presente, perché l'Italia, sia come regola del sistema bancario, sia come regola del controllo della Banca d'Italia, è messa meglio di altri paesi. Lo voglio dire perché spesso critichiamo l'Italia per tante altre cose, però sul fronte delle regole, degli obblighi da assolvere, insomma, noi possiamo anche dare lezioni anche in America, dove da sempre i paesi anglosassoni prevale un'idea meno normativa, più interpretativa, diciamo, delle regole. Comunque, grazie ad Alessandro Merli in collegamento con noi da Pittsburgh, ci risentiremo domani. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di mercati, poi vedremo, vedo molti ascoltatori che scrivono, ma insomma questo G20, vedremo se uscirà qualcosa. Scudo fiscale, allora, abbiamo già letto chi scrive: da un lato l'Italia vuole combattere i paradisi fiscali, ma dall'altro vuole fa dell'Italia un paradiso fiscale in cui è facilissimo far rientrare capitali illeciti, tra l'altro rischiando nulla. Abbiamo già detto che comunque se si vuole dare un condono, uno scudo per il rientro dei capitali, qualcosa devi dare, è inutile fare le verginelle. Abbiamo criticato nei giorni scorsi un'estensione ad alcuni reati un po' forse eccessiva, anche il fatto che gli intermediari non abbiano più l'obbligo di denunciare chi riporta questi capitali. Sul 5%, lascio spazio agli esperti. Faccio notare che in Europa è molto più alta la soglia, 23, 28, 38 e 44 rispettivamente, in Germania, Gran Bretagna e Francia. C'è chi dice se il governo avesse messo il 10% non sarebbero rientrati, ma secondo me quando uno vuole far rientrare soldi che illegalmente ha portato fuori, frutto di attività lecite ma illegalmente portati, o addirittura frutto di attività illecite e quindi legalmente portati, è disposto a pagare anche il 10%. Comunque, insomma, questa è la mia idea. I mercati finanziari, la borsa, meno 1,2% sul FTSE MIB, meno 1,6% Parigi, meno 1,7% Francoforte, meno 1% Londra. L'America perde mezzo punto percentuale, euro su dollaro sceso a 1,46,80. Come sempre con Radio Corri, sulle 24 ore, il commento della giornata. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Oggi realizzi su Intesa meno 3,4%, ma più che realizzi, qui ha pesato il fatto che ormai si tende a escludere la cessione di Fideuram ad Exor. Sì, ha pesato soprattutto questo, anche se è vero che nei giorni scorsi il titolo aveva comunque guadagnato. Questa vendita di Fideuram a Exor, come hanno riportato questa mattina molti giornali, appare più difficile, anche se poi Exor è intervenuta in prima persona con un comunicato spiegando che sostanzialmente non c'è uno stop, che le trattative vanno avanti, anche se il mercato in questa fase sembra crederci un po' meno. Ancora Steamark Electronics meno 3,20, Campari meno 3,1. Sì, per entrambe le società non ci sono particolari ragioni rispetto a questi cali. Dalle sale operative fanno notare come ST stia abbia perso il 3,2%, un po' per la generale debolezza del Nasdaq. Possiamo anche ricordare che comunque nelle ultime settimane aveva guadagnato molto anche sulle indicazioni che erano arrivate da suoi concorrenti. Diciamo che da inizio di settembre ha già messo comunque a segno un rialzo del 12%. Dopo Estima Electronics e Campari, Ansaldo CTS ha perso il 2,3, il 2,3 lo ha perso anche Bulgari e Prismian, l'1,7 è il calo di Talcementi, Fondiaria e Popolare di Milano e Impregilo. Prismian ed Estima Electronics, di cui hai già detto Prismian, scusami. Prismian oggi ha ceduto circa il 2,27%, è rimasta debole dopo che ieri la società ha informato il mercato che l'autorità antitrust australiana ha avviato una procedura giudiziale contro la società. Sostanzialmente le autorità australiane intendono accertare l'esistenza di intese o pratiche concordate nel mercato dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alta tensione, per cui insomma questa notizia oggi ha penalizzato il titolo. Di nuovo in diretta, concludiamo il nostro approfondimento come sempre sulla borsa. Stavamo ragionando con Guido Maurino di altri titoli. Si diceva, al di là di Intesa, Estima Electronics, Campari e anche Prismian, abbiamo visto Intesa, lo ripeto a chi ce lo chiede ancora, è la vicenda della cessione di Fideuram che insomma, si allontana e quindi il titolo ne subisce le conseguenze. Volete sapere cosa ha fatto Fiat? Ha perso lo 0,4%, invece ha guadagnato il 2,5% CIR. Sì, oggi è stata una giornata brillante per CIR a Piazza Affari, i titoli della società hanno guidato il listino principale. Dalle sale operative ci spiegano che sostanzialmente il titolo ha beneficiato di un report di UBS che all'interno di uno studio sulle holding europee ha confermato la raccomandazione buy, quindi acquistare sul titolo, e ha alzato leggermente il target price da 1,6 euro a 1,65 euro. Ancora Mediolanum più 2,2, Mediobanca più 1,80. Mediolanum è un paio di giorni, anche forse di più, che continua a recuperare terreno, ma lì ci sono anche ipotesi, insomma, che tutto il mondo del risparmio gestito possa conoscere una nuova vita, perché insomma come raccontavamo qualche settimana fa, la vicenda Fideuram, ma al di là del fatto che l'Exor se la possa comprare o no, è significativa di una voglia forse dei grandi gruppi bancari, non dico di liberarsi, ma insomma di fare a meno delle società di risparmio gestito. Sì, c'è ovviamente questa attesa di riassetto più in generale nell'intero settore. C'è anche il fatto che in questa fase i titoli sono andati anche abbastanza bene, perché c'è una sorta di ripresa dei mercati che sembra mano a mano confermarsi, anche se oggi le borse hanno chiuso in rosso, e questo unito al fatto che ci sia una ripresa più generale del mercato del risparmio gestito, in questa fase sta privilegiando e sta aiutando questi titoli a crescere. Telecom Italia, strana oggi la giornata, perché era in ripresa, e poi adesso raccontiamo perché, e poi invece ha chiuso con un calo di 0,5 punto percentuale a 1,21 euro. Guido. Sì, in mattinata soprattutto si sono concentrati gli acquisti su Telecom Italia, che era uno dei pochi titoli positivi. Quello che ha fatto muovere il titolo in mattinata, anche se poi nel corso del pomeriggio è arrivato a chiudere in calo dello 0,5%, sono queste indiscrezioni che si rincorrono sull'azionariato, in particolare l'azionariato di Telco, che e la holding che ha un po' il pacchetto di controllo di Telecom Italia. Si torna a parlare di Telco 2 e in particolare si torna a parlare della possibile uscita di Telefonica e di una nuova Telco, quindi di un nuovo blocco di controllo di Telecom Italia che con l'ingresso di Fossati è quindi formato da tutti i soci italiani. Questo ovviamente riaccende un po' l'attenzione sul titolo. Sì, diciamo c'è un po' di confusione sotto il cielo per quello che riguarda Telecom Italia. Ricordo che l'operazione degli spagnoli è di un anno fa, adesso vado a memoria, però correggimi se sbaglio, comunque un'operazione molto recente. Già si rimette in discussione l'assetto e l'equilibrio dell'azionariato. Andiamo avanti con i titoli migliori e i peggiori in assoluto. Oggi sul listino diverse variazioni, abbiamo visto ancora tra i migliori e i peggiori Safilo perdere il 6,60%, mentre tra i migliori più Quadro più 7,31%, Banca Generali più 4,86%, Il Sole 24 Ore più 4,6%. Adesso non voglio messaggio, non lo citiamo mai, per cui per una volta che lo cito, per favore. Telefonica più 4,5%, Munich Re più 4,3%, ebbene anche le SNAI più 3,7%, P-Quadro, ma soprattutto Safilo. Sì, allora, P-Quadro oggi ha guadagnato bene in borsa, non ci segnalano particolari ragioni dalle sale operative, c'è stato anche nei giorni scorsi, abbiamo visto qualche ripresa del lusso. Per quanto riguarda Safilo invece continua sempre l'attesa per l'evoluzione della società. Nelle scorse sedute il titolo aveva guadagnato molto anche dopo che c'era stato questo annuncio di Della Valle che era salito al 2% eccetera sulle possibili strategie future della società. Oggi ovviamente hanno prevalso un po' di prese di beneficio dopo i forti rialzi delle scorse sedute. Allora, vi anticipo che abbiamo chiesto al Ministro Zaia di poter fare un'intervista con lui domani a questo punto, perché vorremmo toccare in maniera abbastanza esaustiva il tema delle quote latte, della difesa dei prodotti lattiero-caseari italiani, dei prezzi dei generi alimentari e dei generi dell'agricoltura, perché ci sono dei rincari ingiustificabili, e delle tutele che Bruxelles potrà dare alle nostre produzioni. Non volevamo restringere lo spazio, quindi gentilmente la faremo domani l'intervista. Adesso, nel ringraziare Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore, vi lascio al nostro GR, poi torniamo per parlare di rapporto banca impresa. Lo so, è una fissazione, però finché non ce la leviamo di testa questa fissazione, continuiamo. Rapporto banca impresa, dichiarazione di oggi del ministro Tremonti, e poi torna un imprenditore che per molti di voi diventò quasi leggendario, un simbolo della solitudine dei piccoli imprenditori o della solitudine percepita dai piccoli imprenditori durante la crisi. Lo contattammo a giugno e ci disse che non sapeva se e come avrebbe riaperto i battenti a settembre. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, banche e imprese, continua il nostro viaggio nelle testimonianze di grandi imprenditori, imprenditori di successo che però stanno affrontando come tutti questo momento di difficoltà, e i consigli che ci possono dare li abbiamo ascoltati, li ascolteremo anche nelle prossime puntate, e alterniamo come sempre queste interviste con invece casi di imprenditori in estrema difficoltà, piccoli, piccolissimi, che hanno difficoltà ad andare avanti, soprattutto va detto perché si sentono molto soli, molto poco seguiti dal mondo bancario, lo dico anche se so che poi questo porta sms di critica. Restiamo intanto sul tema banche e imprese, ma nella parte diciamo più istituzionale, perché di questo ha parlato oggi il ministro Tremonti, ministro che questa sera sarà e parteciperà poi ai lavori anche domani del G20, del G20 abbiamo già parlato. Tremonti è tornato sul tema del rapporto banche-imprese, ma soprattutto del ruolo delle banche, dopo aver ricordato che adesso va molto meglio dell'anno scorso. L'anno scorso era quasi un incubo, ha detto Tremonti, in un mondo, anzi un mondo governato da banchieri non è bello, e se le banche non prestano soldi a che servono? È sicuramente molto meglio, l'anno scorso era quasi un incubo. Sicuramente gli incontri dei capi di Stato e di governo, l'azione dei governi è stata giusta. Il mondo governato dai banchieri non è un bel mondo. Resto convinto del fatto che non sono i cittadini a servizio delle banche, ma le banche a servizio dei cittadini. E se le banche non danno i soldi alle imprese non si capisce a cosa servono. Devo dire che del tema banche, ma in questo caso anche e soprattutto per i bonus, per i compensi dei grandi gruppi bancari americani, ma non solo, su questo tema è tornato oggi anche il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che ha definito scandaloso l'ammontare di bonus che molti grandi gruppi bancari, penso a Goldman Sachs, penso a Citigroup, sono i nomi che mi vengono in mente, hanno già messo da parte nel 2009, ci cioè hanno già accantonato i soldi da distribuire poi come bonus, come premi ai loro managers e top managers. Sentiamo Strauss-Kahn sul punto. Le posizioni degli americani e degli europei non sono esattamente le stesse. È molto importante affrontare il tema dei bonus, perché è scandaloso vedere l'ammontare a loro destinato in questo periodo di crisi. Ma c'è anche un problema di fondo al di là di quello etico. Il fatto è che i bonus spingono gli individui a prendere dei rischi che in seguito, se le cose vanno male, la società nel suo insieme deve sostenere. E questo è inammissibile. Il sistema americano e quello anglosassone in generale, dietro a loro il sistema finanziario mondiale, sembrano ritornare alle vecchie abitudini, come se non fosse successo nulla. È per questo che è importante che a Pittsburgh si affronti seriamente la questione. Occuparsi dei bonus non vuol dire però fermarsi solo a questo. Occorre andare più lontano se si vuole che il sistema finanziario sia veramente al servizio dell'economia reale e della gente, piuttosto che il contrario. L'economia reale e della vita des hommes piuttosto che il contrario. E mentre a Pittsburgh da stasera si discuterà anche di questo, di come controllare le grandi istituzioni finanziarie, di che regole dare ai premi dei super manager, mentre appunto i grandi discuteranno a Pittsburgh, anche i piccoli imprenditori continuano a cercare di andare avanti senza chiudere. Eh sì, due mondi, in alcuni casi sembrano proprio due mondi. Molti di voi ci hanno chiesto in queste settimane che fine ha fatto Paolo Piccinelli. Alcuni di voi diranno: chi è Paolo Piccinelli? Beh, è un imprenditore che dopo una lettera scritta su un quotidiano intervistammo a giugno a una piccola azienda con il fratello a Brescia che progetta, produce e commercializza accessori idraulici di presa per gru da camion ed escavatrici idraulici. Esporta in più di 35 paesi, ma non è questo il motivo per cui lo intervistiamo. Lo intervistiamo perché l'appello che lui fece sembrava quasi un manifesto delle migliaia, delle centinaia di migliaia di piccoli artigiani, imprenditori e agenti anche e operatori anche in altri settori che non riuscivano a ottenere credito, prestiti, dilazione da parte delle banche e vivevano in una difficoltà sempre più alta, anche perché nel frattempo non si stava sbloccando la cassa integrazione nel caso di Piccinelli. Il 18 giugno vi faccio riascoltare un passaggio di quello che fu il suo intervento, in realtà molto più lungo. In Italia la crisi è arrivata più tardi, perché noi fino a dicembre 2008 abbiamo avuto il record di fatturato e dal 1 gennaio invece sembra che qualcuno abbia spento un interruttore. Meno 80% di fatturato, telefoni spenti, fax muto e clienti, concorrenti, fornitori con gli occhi fuori dalla testa. Da gennaio abbiamo esaurito le commesse che avevamo pendenti col 2008 e poi esaurite quelle abbiamo fatto un po' di magazzino e adesso stiamo raschiando il fondo del barile, insomma. Ha messo i dipendenti in ferie? Ferie ne avevano poche perché li ho sempre fatti ruotare, poi ci conosciamo, alcuni le ferie le paghiamo, altri rinunciano. Siamo passati alla cassa integrazione dai primi di aprile, a rotazione 5-6 persone, a maggio invece più della metà e oggi, adesso sta suonando la sirena perché vanno a casa, ho qui 7 persone su 25, insomma. 7 su 25, cioè gli altri 18 sono in cassa integrazione? Sono in cassa integrazione e man mano mi servono, in base alle loro qualifiche, li faccio venire. Noi ci parliamo, ci diamo del tu perché ci conosciamo, veniamo tutti da un piccolo paesino, proprio l'azienda presepio, Piccinelli adesso vede cosa può fare, perché quelle due palanche che mi ha lasciato nostro padre le abbiamo reinvestite in azienda e stiamo cercando di salvare il salvabile, però Piccinelli e suo fratello devono anche tutelare le proprie famiglie, quindi io temo che dovremo prendere delle decisioni molto spiacevoli. Fino all'ultimo cercheremo di arrabattarci in qualche modo, trovare nuove cose, cercare di... Però io ho la sensazione che stia accadendo dal decimo piano e continuiamo a dire finora tutto bene, finora tutto bene, finora tutto bene. Ecco, poi alla fine troveremo il marciapiede. Così Paolo Piccinelli lo scorso 18 giugno, oggi è il 24 settembre. Paolo Piccinelli in collegamento con noi, buonasera. Buonasera dottor Barisoni. Allora, lei è vivo e la sentiamo... di questo... Grazie a Dio, vivo e vegeta. Vive l'azienda? L'azienda è ancora viva, non vegeta come me, però insomma siamo ancora qui al posto di combattimento. Allora, visto che noi l'abbiamo usata come esempio e come caso emblematico di una situazione che riguarda, ripeto, centinaia di migliaia di persone, di piccoli, piccolissimi imprenditori... Allora, Paolo Piccinelli, l'azienda c'è ancora, che cosa è successo dal 18 giugno quando ci siamo salutati con chiaramente un in bocca al lupo per lei e per tutti i suoi dipendenti? Allora, innanzitutto devo ringraziare lei, il Sole 24 Ore, perché a seguito della sua intervista in diretta sono stato contattato dall'Associazione Industriale di Brescia che mi ha dato una bella mano a risolvere alcuni problemi pesanti, per esempio... l'approvazione della cassa integrazione sono riuscito ad ottenerla subito dopo e questo ci ha permesso di avere un pochino più di tranquillità fino a fine luglio. E poi siamo stati aiutati da una leggerissima ripresa degli ordini che sono sempre comunque meno 50% rispetto allo scorso anno, però non sono più il meno 80% di maggio, ecco. Dunque, chiaro, io la ringrazio per i complimenti, ma noi l'abbiamo usata solo come testimonianza e come esempio. È chiaro che il metodo non può essere questo, sennò facciamo un programma apposito, che per carità potrebbe essere anche un'idea, ma insomma facciamo un programma apposito per... Avrebbe ascolti incredibili. Sì, diciamo, già ci battiamo bene, per carità, però insomma sarebbe una cosa assolutamente non ortodossa quella di ottenere aiuti e ascolto perché uno viene interpellato in radio, però insomma meno male che almeno con lei le cose così sono andate. Molta solidarietà quindi e tutto questo insomma l'ha aiutata, nessun episodio strano spero. Ma Dio, guardi, io ho ricevuto accanto a numerose attestate di solidarietà e di stima da parte di gente che nemmeno conoscevo, sia imprenditori sia perfetti sconosciuti. Ho avuto anche episodi un pochettino tristi di sciacallaggio. Perché? Sciacallaggio di che? Nel senso di concorrenti che telefonavano a clienti comuni dicendo guarda non compra più da Piccinelli perché sta saltando per aria, ecco. Perché l'ha detto Radio 24 magari? Perché l'ha detto Radio 24. Ecco, vede che non facciamo solo bene. Vabbè, questo mi sembra abbastanza indegno approfittarsi delle disgrazie altrui. Comunque noi andiamo avanti sulla sua vicenda. Meno 50, gli ordini erano meno 80%, adesso sono meno 50% rispetto all'anno prima, è già qualcosa. La cassa integrazione come sta andando sui suoi 25, quanti sono? 25 dipendenti, no? Sì, sì, la cassa integrazione a luglio l'abbiamo ridotta sensibilmente rispetto a maggio e giugno perché appunto c'è stata una leggera ripresa degli ordini. Ad agosto poi abbiamo chiuso tutto il mese, cosa mai successa, però purtroppo abbiamo dovuto imporci questo mese di chiusura per fare un po' il punto della situazione e come noi quasi tutti gli imprenditori che collaborano con noi. A settembre fortunatamente siamo rientrati col personale al 100% per le prime tre settimane e alcuni ordini pian piano stanno arrivando, anche grazie a nuove linee di prodotto che nel frattempo ci siamo affrettati a mettere in piedi. Ad oggi settembre è il 30-40% inferiore allo scorso anno, però comunque è già un netto recupero rispetto al prima delle vacanze. Quindi possiamo dire che da un meno 80% del periodo gennaio-maggio siamo arrivati a un meno 30%, che non è poca cosa. Che non è poca cosa, ci consente perlomeno di stare sopra la linea di galleggiamento, ecco. Già questo è buono. Senta, chiaramente io non capisco nulla di accessori idraulici, di prese per gru da camion ed escavatrici idrauliche, però quando lei mi dice che avete cercato anche di reagire con nuove linee di prodotto, vorrei capire, al di là della parte tecnica, dove e come avete investito, e visto che esportate direttamente in 35 paesi, da dove stanno arrivando gli ordini più importanti? Allora, gli ordini più importanti arrivano comunque dall'Italia. La nostra espansione è stata verso il comparto dell'edilizia e del movimento terra, mentre il nostro settore di punta è il riciclaggio, soprattutto del rottame, ma anche degli altri rifiuti. Quindi abbiamo cercato di differenziare un po' il portafoglio di prodotti. Però notiamo una ripresa, se non altro, degli ordini dei pezzi di ricambio un po' da tutta Europa. Se arrivano gli ordini dei pezzi di ricambio vuol dire che perlomeno chi ha già acquistato in passato le nostre attrezzature sta ricominciando ad usarle, quindi speriamo a breve che ricomincino a comprare anche il nuovo, ecco. Cioè dice, se torna a usarle si rompono, quindi hai bisogno di pezzi di ricambio. Si rompono, quindi compreranno anche nuove. Ecco. Mentre invece a maggio e giugno non si vendeva neanche un ricambio, questo era sintomo che gli automezzi e le macchine operatrici rimanevano ferme nel piazzale. Ecco. Ultimo aspetto, la ciliegina sulla torta, lo dico con massimo rispetto, rapporto con le banche e con i fornitori. Noi abbiamo avuto i casi di imprenditori famosissimi, Alessandri Tecnogym, Beraldo di Coin e Calligaris della Calligaris, che hanno tutti detto: noi stiamo facendo le banche con i nostri fornitori, cioè stiamo accettando pagamenti in ritardo, gli diamo più tempo per ritornare per pagarci, perché sappiamo che sennò altrimenti li strangoliamo. Ecco, chiaramente lei non ha le dimensioni dei gruppi che ho appena citato, vorrei sapere come va il rapporto con i fornitori e poi anche come va il rapporto con le banche. Guardi, con i fornitori per noi è sempre stato un principio immobile di rientrare in tempo su tutte le nostre esposizioni. Per far fronte a tutti gli impegni a breve con i fornitori abbiamo messo le mani in tasca e abbiamo apportato dei nuovi capitali, dell'aria fresca all'azienda. Per quanto riguarda i clienti invece abbiamo avuto qualche sofferenza che adesso pian piano sta rientrando. Ecco, diciamo, noi abbiamo fatto le banche da banca ai clienti fino all'inizio dell'estate. Fortunatamente non siamo esposti con cifre enormi, i nostri clienti hanno tutti, diciamo, abbiamo tanti piccoli clienti e quindi questo ci aiuta a rientrare pian piano. Ecco. Chiedono gli ascoltatori se qualche sacrificio l'avete fatto anche voi, visto che sicuramente l'hanno fatto i vostri operai. Qualche sacrificio l'abbiamo fatto anche noi, certamente, perché come ho risentito dal brano della mia intervista di giugno, abbiamo fatto tutto il possibile anche mettendoci le mani in tasca per tenere in piedi l'azienda. Ecco, quei soldini che avevamo da parte li abbiamo investiti ancora una volta credendo nella nostra impresa. Cioè le mani nel portafoglio più sì, che sì. Più che in tasca. Il rapporto con le banche? Il portafoglio era vuoto, mi aveva raschiato il fondo delle tasche. Il rapporto con le banche, Piccinelli, come va? Il rapporto delle banche è ancora stabile, stabile al brutto, nel senso che a fronte di un istituto che ci ha aiutato a rimodulare i nostri impegni a breve, altri continuano a mandare avanti lettere con aumento di costi, aumento di commissioni, riduzione dei fidi, insomma la fiducia delle banche nei nostri confronti è diminuita moltissimo. E io credo di non meritarmi un trattamento del genere, ecco. Questo è un po' il punto dolente, un po' di tutta la situazione. Come ha detto prima il ministro Tremonti, se le banche non prestano i soldi a cosa servono? Beh, a farli, direbbe qualcun altro. Comunque, sì, a farli. Vabbè, no, la battuta era fin troppo scontata. Piccinelli, io sono contento invece di chiudere con una buona notizia, perché così come ho detto, lei era un caso emblematico della crisi in cui stavano versando gli imprenditori in quel periodo, e ancora vi sono, però spero che emblematico sia anche quello che ci ha raccontato, cioè che valga per centinaia di migliaia di altri casi, un miglioramento, seppur col segno a meno, ma un miglioramento visibile da meno 80% a meno 30% nel fatturato, qualcosa che si muove sugli ordinativi. Certo, col mondo bancario ancora secondo me non ci siamo. Sono però contento che lei sia vivo e che sia viva l'azienda, le due cose assieme. Grazie e di nuovo in bocca al lupo a Paolo Piccinelli e a tutti Paolo Piccinelli d'Italia. Ve la prendete sempre con le banche, dicono alcuni ascoltatori. No, non ce la prendiamo con le banche, diciamo, cerchiamo di raccontare quello che ci arriva, e devo dire che lo filtriamo anche, perché molti degli sms, delle email che riceviamo sono così negative che nemmeno ve le leggiamo. Comunque siamo qui aperti a tutti ad ascoltare anche la versione delle banche, spesso la mandiamo in onda, poi però al di là dei grandi sistemi, dei grandi ragionamenti, vorremmo vedere la concretezza nei fidi, appunto, e nei prestiti. Per ora è tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.